Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e 9 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Parleremo chiaramente della legge di stabilità, come si chiama adesso la legge finanziaria, una manovra da 30 miliardi con 16 miliardi di tagli e 18 miliardi di tasse in meno. Questo quanto emerso soprattutto ieri, quando, come ricordavamo, il Premier Renzi, poi una parte delle dichiarazioni non sono entrate in questo programma perché sono arrivate dopo, comunque quando Renzi ha anticipato alcuni numeri sulla legge di stabilità o legge finanziaria: 3 anni a 0 contributi per le neoassunzioni, 6 miliardi e mezzo per abolire la componente lavoro dell'IRAP. Ne parleremo, dicevo, nella seconda ora del programma. Oggi il Presidente del Consiglio ha comunque detto che non vi è alcuna divergenza con il Tesoro, e il Ministro Padoan, nel corso del vertice Ecofin in corso in Lussemburgo questa mattina, ha detto che, attenzione, la correzione strutturale resta dello 0,1% e ha confermato e ribadito il rispetto del 3% nel rapporto deficit PIL. Le risorse, dice il Ministro Delrio, o meglio sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Graziano Delrio, dice le risorse arriveranno dalla lotta all'evasione e dai tagli. Conferma il Ministro al Lavoro Poletti il taglio dei contributi per i neoassunti e esclude l'intervento sulle alcun tipo di intervento sulle pensioni. Questo per quello che riguarda la legge di stabilità che entra nel vivo. Parleremo anche di Germania in apertura, perché invece dalla Germania continuano ad arrivare notizie negative. Ripeto, non c'è nessun mal comune mezzo gaudio. La Germania è la locomotiva d'Europa e il fatto che stia frenando non ci fa contenti. Significa semplicemente che tutti quelli che prevedevano che frenando il resto d'Europa prima o poi l'austerità, la sola austerità, avrebbe contagiato anche la Germania, beh, avevano e sono stati facili profeti. La Germania oggi ha tagliato le stime del PIL di nuovo, sia per l'anno in corso che per il 2015, 1,2% quest'anno, che sicuramente è meglio del meno 0,3 che farà l'Italia o del più 0,5 che farà la Francia, ma è rivisto rispetto a un 1,8 iniziale, per cui è un taglio del 30% sulla stima del PIL tedesco. Così come un altro 30% in meno viene tagliata la previsione sul 2015, dal 2% atteso adesso non si andrà oltre l'1,3%. L'altra notizia, a mio avviso ancora più significativa, che riguarda la Germania, tocca il crollo della fiducia degli investitori. L'indice ZEV, che è l'indice che misura la fiducia degli investitori tedeschi, a ottobre è piombato a meno 3,6 punti da 6,9 di settembre. Al di là dei punti, la cosa importante è che è il decimo calo mensile consecutivo ed è peggiore rispetto alle attese degli analisti. Tra l'altro porta la fiducia degli investitori tedeschi ai minimi dal novembre del 2012. Ecco perché si dice: se veramente vi sono 300 miliardi da spendere in Europa e se veramente la Germania ha intenzione di fare investimenti e sia sul fronte pubblico e avere una politica dei salari che faccia, che porti ad aumentare la domanda interna tedesca, i consumi interni tedeschi, meglio che inizia a farlo adesso. C'è una notizia dell'ultima ora, degli ultimi minuti in realtà. In Grecia il tasso del bond greco, dell'obbligazione greca a 10 anni, l'equivalente del BTP italiano a 10 anni, è schizzato al 7% come rendimento, è al massimo da marzo. E la borsa va molto male oggi in Grecia, meno 5,7%. Visto che parlavo della borsa greca, parliamo anche di quella italiana, che in realtà cala complessivamente di uno 0,19%, Parigi fa più 0,20%, Francoforte più 0,22%, Londra più 0,30%, l'America più 0,60%. Che cos'è che tiene bassa la borsa italiana? Beh, come peso anche il titolo Eni, che perde l'1%, ma alcuni bancari, penso alla Banco Popolare che perde l'1,40%, la Pop Milano che perde l'1,85%, Unicredit perde lo 0,90%. Poi c'è il fronte di Luxottica, meno 2,90% anche oggi, Ferragamo meno 3,30% e poi il Monte dei Paschi che tutto il giorno che va particolarmente male e adesso perde il 4,70%. Ne parleremo come sempre nel corso dei mercati finanziari. Per quello che riguarda Monte dei Paschi, c'è stato un giudizio degli analisti di JP Morgan che hanno tagliato il giudizio sul titolo dicendo che c'è un peggioramento della qualità degli asset, quindi delle partecipazioni di Monte dei Paschi, e comunque resta la necessità di ridurre l'indebitamento. Monte dei Paschi ha avuto anche uno stop al ribasso a un certo momento e adesso appunto il titolo quota con un calo del 4,46% e per la precisione a 96 centesimi di euro per azione. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Rapidamente le altre notizie in breve. Allora sì, molti mi chiedono degli incontri, no, guarda che il premier cinese incontra Matteo Renzi, era già previsto nel pomeriggio, domani vi sarà un altro incontro in un convegno importante, giovedì mattina a Milano, e poi vi sarà anche l'incontro con Putin e con il leader ucraino, c'è infatti il vertice ASEAN qui a Milano giovedì, inizia verso metà giornata, ma appunto vi sono prima il bilaterale, diciamo, con la Cina e poi durante la giornata anche con Russia e Ucraina. Beh, oggi sono arrivate anche vari dati sul famoso rapporto Doing Business 2014 della Banca Mondiale. Le procedure per avviare un'impresa in Italia restano le più numerose, 6 contro una media di 5 all'OCSE. Pesano i costi pro capite, 17% del reddito contro il 5% in Belgio, in Grecia si va al 20%. Pensate che in Italia per aprire una startup, ora chiaramente è una media, le medie vanno prese con le pinze, però per debuttare come imprenditore in Italia in media devi avere il costo di 2.673 euro, calcola la Banca Mondiale, contro i 33 euro che costa in Gran Bretagna, i 50 euro dell'Irlanda, i 115 della Spagna, i 176 della Germania e i 399 della media europea. Al di là del fatto che uno possa obiettare che il costo per avviare un'impresa sia di 2.700 euro in Italia, la cosa importante è il raffronto, immaginiamo che abbiano usato gli stessi parametri e quindi la sproporzione tra i costi italiani in rapporto con i costi britannici, spagnoli e tedeschi è evidente. Non parliamo poi di quanto spende un imprenditore, un'impresa per adempiere alla burocrazia fiscale. Ci vogliono 270 giorni in Italia. Pensate che in Lussemburgo ci vogliono 2 giorni e mezzo. A noi basterebbe arrivare alla media tedesca, che pure ne ha di burocrazia sulle imprese, sono 200 giorni in Germania, però sono 70 giorni in meno rispetto a quanto non debba spendere un imprenditore italiano per burocrazia fiscale. Oggi è arrivato anche un altro rapporto, è il famoso Global Wealth Report del Credit Suisse. Cos'è? È il rapporto sulla ricchezza, sui ricchi, sui super ricchi. Nel mondo ci sono 128.000 paperoni super ricchi con un patrimonio netto sopra i 50 milioni di dollari. Ora, è vero che c'è stata anche nel 2008-2009 la crisi più grossa dei tempi del 29, che per la maggior parte dei paesi però è durata solo 2-3 anni. La cosa interessante però, e questo la dice lunga su come complessivamente l'economia globale stia crescendo, piace o non piace a chi scrive altre fesserie, ma in realtà l'Europa è in difficoltà, l'Italia è in estrema difficoltà, ma a livello mondiale ci sono 200 milioni di poveri in meno negli ultimi 10 anni e, pensate, i ricchi, i super ricchi, sono triplicati rispetto al 2000, appunto quando erano meno di 30.000. Attualmente di questi 128.000, 45.000 hanno almeno 100 milioni di patrimonio e addirittura 4.300 persone al mondo hanno valori, cioè proprietà e investimenti per 500 milioni di euro. La classifica è guidata dagli Stati Uniti, 63.000 super ricchi, sono la metà del totale, poi segue l'Europa che è al 24% e l'Asia Pacifico che include Cina e India al 20% dei super ricchi totali. L'Italia è al sesto posto in questa classifica, noi non siamo al sesto posto come prodotto interno lordo, anzi siamo scivolati al settimo, e né come commercio mondiale, però quanto a patrimonio e ricchezza noi siamo al sesto posto con 3.322 individui, il 2,6% di tutti i super ricchi, che hanno più di 50 milioni di dollari pro capite. Veniamo all'Italia, la deflazione non accenna a fermarsi, alcuni paesi hanno l'inflazione bassa, noi abbiamo la deflazione, che vuol dire i prezzi che calano. A settembre l'indice dei prezzi al consumo è sceso dello 0,2% rispetto allo stesso mese del 2013, meno 0,2%, che è chiaramente una media. Pensate che tra l'altro su base mensile abbiamo fatto meno 0,4 e quindi il mese di settembre rispetto ad agosto ha fatto meno 0,4. Gli alimentari sono cresciuti pochissimo, più 0,2, ma mese su mese più 4% su base annua. In realtà sono tutte le altre voci che calano in maniera significativa, e i consumatori, le associazioni dei consumatori sostengono, attenzione, in 3 anni si è speso il 10,7% in meno per i consumi delle famiglie. La manovra, vedo molti messaggi al 349-238-6666 sulla manovra, ne parliamo nella seconda ora. Però insomma, confermata una manovra in tutto da 30 miliardi, meno tasse e sgravi fiscali, il TFR in busta non ci sarà, dice il ministro Delrio, è un tema da approfondire, i soldi arriveranno dai tagli, dalla lotta all'evasione. I 30 miliardi della manovra, da quello che abbiamo capito, si compongono di 16 miliardi di tagli e 18 miliardi di tasse in meno. 3 anni a zero contributi per le nuove assunzioni e poi 6 miliardi e mezzo per abolire la componente lavoro dall'IRAP. Il ministro Padoan, che oggi ha incassato la dichiarazione di Renzi che ha detto non c'è nessuna divergenza con il tesoro, ha aggiunto usiamo la flessibilità presente nel patto di stabilità, la flessibilità europea, sono fiducioso che con Bruxelles le relazioni saranno costruttive. La correzione strutturale del deficit resta dello 0,1%. La legge di stabilità, il Presidente del Consiglio ha annunciato alcune componenti aggregate della legge di stabilità, la quale deve essere ancora finalizzata e domani approvata dal Consiglio dei Ministri. E i numeri della legge di stabilità saranno contestualmente presentati al Parlamento e alla Commissione europea. Mi pare un po' presto dire che si debba correggere qualcosa che non è ancora stato finalizzato, francamente. Quindi la filosofia della legge di stabilità è che è un complemento essenziale alle misure di riforma strutturale, a cominciare da quella del mercato del lavoro, che sarà sostenuto con risorse destinate al miglioramento del mercato del lavoro in legge di stabilità. Quindi noi cerchiamo di applicare in pratica i pilastri della politica di crescita dell'Europa, che è appunto riforme strutturali e growth friendly fiscal consolidation. Questo nel rispetto dei vincoli europei, il limite del 3% sarà ulteriormente rispettato, nel senso che scenderemo al di sotto e continueremo a farlo, e andremo avanti nel consolidamento strutturale. Allora, così Ministro Padoan, è un po' tecnico, infatti ripeto, avremo un approfondimento nella seconda ora del programma. Veniamo invece alla Germania, io non sto affatto godendo, devo dire però che insomma poteva essere un po' incauto il presidente della Bundesbank Weidmann. Io Weidmann, ok, l'abbiamo anche conosciuto qui a Sole 24 Ore, non è che ha la moglie italiana, viene a Napoli a comprarsi le cravatte e conosce benissimo il nostro paese, eppure ha questo atteggiamento, diciamo, un po' ariano sulle cose. Allora, Italia e Francia sono i bambini problematici dell'Unione Europea. Ma insomma, si può parlare così di due paesi come Italia e Francia? Insomma, se noi dicessimo che la Germania è la vecchia zia tirchia dell'Unione Europea, col braccino corto, non sarebbero contenti se il nostro governatore Ignazio Visco dicesse la stessa cosa della Germania. Allora cosa facciamo? Iniziamo a fare i bambini problematici, le vecchie zie avare? E tra l'altro ha parlato appunto di Sorgenkinder, che viene usata spesso nel dibattito tedesco. Gli esempi di Spagna e Irlanda mostrano che le riforme strutturali valgono la pena. Il rischio di deflazione nell'area euro è basso. L'economia tedesca, ha aggiunto Weidmann, si sta indebolendo, però non è che si chieda perché, e poi che sia basso il rischio di deflazione, non è che la BCE la pensi esattamente nello stesso modo. Comunque, oggi appunto confermato un taglio del 30% sulla crescita economica tedesca, c'è qualcuno che contesta, no, era prevista all'1,8 quest'anno e sarà all'1,2, 1,06 in meno, l'anno prossimo era prevista al 2%. E se ben vedo sarà l'1,3, e anche qui siamo quasi al 30% di riduzione, con la fiducia che crolla ai minimi, nel fiducia degli investitori dal 2012, dopo i dati sulla produzione industriale e sugli ordinativi all'industria. Il ministro tedesco Sigmar Gabriel ha detto attenzione, non ci sono motivi di allarmismo e cambiare il corso del governo tedesco, la Germania continua a crescere, non è in recessione, poi ha aggiunto i maggiori debiti di Berlino non aiutano l'Italia. Allora, Alessandro Melli ha l'onore e l'onere di fare il corrispondente del Sole 24 Ore da Francoforte. Buonasera Alessandro. Buonasera, ma è un piacere. È un piacere soprattutto, e vorrei capire una cosa, insomma, tu sei sempre molto schietto, ma Gabriel dice così perché deve dire così, nel senso che ormai è da due settimane che assistiamo a dati, non tanto il PIL, penso alla produzione industriale, peggio dalle stime, gli ordinativi dell'industria ai minimi dal 2009, una difficoltà nell'export, che stanno a segnalare un rallentamento. Nessuno ha mai detto che la Germania sia in recessione, ci mancherebbe, però se invece che fare l'1,8 fai l'1,2, se invece che fare il 2 fai l'1,3, qualche punto, qualche interrogativo te lo devi pur porre. È pragmatica o veramente, insomma, sì, c'è un rallentamento, ma il governo tirerà dritto tedesco per la sua strada? I tedeschi si rendono conto che c'è un rallentamento. Prima del governo è stata la Bundesbank a dire che la seconda metà dell'anno sarebbe stata molto peggio di quello che si prevedeva anche solo qualche mese fa. Sul fatto che si rendano conto che c'è un rallentamento non ci sono dubbi. Oggi nel pubblicare il dato dell'indice della fiducia degli investitori e degli analisti, Clement Fuchs, che è un economista tedesco molto rispettato, ha detto che non esclude neppure una recessione, almeno intesa come due trimestri di crescita negativa consecutivi. Quindi il fatto non è contestato. C'è però questa vacca sacra diventata ormai del bilancio, che nel 2015 deve essere in pareggio perché non avviene dal 1969, e questo sarebbe un modo per il ministro delle finanze Wolfgang Schäuble di entrare nella storia come l'uomo che ha riportato il bilancio in pareggio. Quindi si farà di tutto per non mancare questo obiettivo. Eventualmente, se si dovranno fare degli interventi di maggiori investimenti sulle infrastrutture, che come sappiamo sono molto carenti, sia quelle fisiche che quelle delle comunicazioni elettroniche, eccetera, si cercherà di tagliare da qualche altra parte. L'unica cosa che in parte vera che ha detto Gabriel è che non è detto che più debito in Germania generi crescita in Italia, Francia, Spagna, eccetera. Se dovessero esserci questi investimenti in infrastrutture, soprattutto quelle fisiche come ponti e strade, è probabile che la maggior parte dei beneficiari siano imprese tedesche e tutt'al più un po' di muratori polacchi, visto che la costruzione in Germania, la maggior parte dei lavoratori ormai vengono dalla Polonia. Però credo che si sia passati in Germania dallo stato di qualche settimana, non mese, ma qualche settimana fa, in cui si pensava che la crisi non li riguardasse, a un passaggio successivo in cui si dice la crisi ci riguarda, ma in fondo sono fattori esterni, la geopolitica, la Russia, l'Ucraina, l'Eurozona che rallenta, eccetera. Adesso vedremo quale sarà il prossimo stadio. Sì, perché va detto, insomma, che da un lato, dopo il vertice di Milano della settimana scorsa, Angela Merkel ha detto vabbè, adesso noi inizieremo a vedere come fare investimenti e cercheremo di capire. Poi tu hai le dichiarazioni che leggevo di Gabriel, che dice no, non cambia niente, però poi dice attenzione, sì, c'è qualche difficoltà, perché corregge anche lui il tiro. E poi hai Weidmann che non perde occasione per farci capire quanto è contrario alla linea. Weidmann è il presidente della Banca Centrale Tedesca, della Bundesbank, quanto è contrario alla linea della BCE e il fatto che Francia e Germania siano gli studentelli. Com'è che li ha chiamati di nuovo? Perché mi dà così fastidio la cosa che l'ho rimossa. Aveva detto Weidmann i bambini problematici. Vabbè. Problematico posso, non so se sia più, forse problematico ci sta, è bambino che dà fastidio, perché tu non sei nessuno per dare da me del bambino, e non ti dimenticare che anche tu eri un bambino problematico quando nel 2003 fosti il primo paese, cara Germania, a sfondare il tetto del deficit al 3%, per cui sai, prima di dare agli altri dei bambini problematici, poi tu hai fatto i compiti, tutti te lo riconosciamo, ma non vieni a fare il primo della classe, perché danno fastidio i primi della classe. Detto ciò, secondo te è tutta melina? Tutta amuin, come dicono a Napoli, che ripeto Weidmann conosce bene, almeno per comprarsi le cravatte, oppure secondo te qualcosa si muoverà? Perché io sai che onestamente, poi non conoscendo bene la Germania come fai tu, questa cosa non l'ho capita, non capisco se sia un po', se siano dichiarazioni per far contenti gli europei, tranquilli i mercati e poi tirano dritto al di là del 0% nel deficit. Ma diciamo che c'è una forte pressione dell'opinione pubblica in Germania, cioè questa cosa di avere i conti in ordine e di considerare i conti dello Stato, che è un errore, come se fossero quelli di una famiglia, che quindi le entrate devono sempre corrispondere alle uscite, è una cosa molto diffusa nell'opinione pubblica tedesca, molto sentita, quindi diciamo sia fra i cristiano-democratici della signora Merkel e di Schäuble, sia anche fra i social-democratici di Gabriel, questo modo di sentire è molto diffuso. Ora, quando l'economia tedesca entrerà in recessione, o forse anche un po' prima, forse il governo si deciderà a fare qualcosa, pur considerato che sì, tutto sommato quest'anno loro cresceranno dell'1% e c'è una tolleranza notevole in Germania per la bassa crescita, quindi non è che si allarmino. Quindi mi sembra di capire che nemmeno tu ci credi tanto, dai. No, perché l'importante è dirsi le cose come stanno, nemmeno al di là delle dichiarazioni, sì, vedremo, dobbiamo fare gli investimenti che poi... No, faranno qualcosa, ma non sarà se qualcuno si aspetta un massiccio piano di investimenti tedeschi, soprattutto che questo poi abbia un effetto, diciamo, di grande spinta sul resto dell'Eurozona. Vale anche per i salari? Qualche dubbio, i salari un po' si sono mossi, considerato che venivano da 10 anni e più, se non 15, o di contrazione o comunque di compressione, quindi i salari negli ultimi aumenti salariali, negli ultimi diciamo negoziati si sono mossi, addirittura lo stesso Weidmann ha detto che i salari dovrebbero crescere di più, io credo che forse ancora di più di queste azioni possano contare per per il resto d'Europa qualche concessione che la Germania possa fare sugli investimenti europei, cioè quelli fatti dalla BEI, quelli fatti da istituzioni europee attraverso cui canalizzare queste operazioni di investimento europeo. Gli investimenti in Germania di per sé non so fino a che punto possono creare crescita in Italia. Non capendoci nulla, però ragionevolmente gli investimenti, tu hai ragione, intanto bisogna vedere quali sono le tue ditte fornitrici, subfornitrici, magari sono tedesche, magari gli operai sono polacchi. Altra cosa è l'aumento dei salari, perché obiettivamente se i cittadini tedeschi consumano di più, forse lì un beneficio più ampio per il resto d'Europa ci potrebbe essere sul fronte dei consumi. È chiaro che consumeranno anche e soprattutto cose tedesche, però diciamo noi non siamo messi male sull'export in Germania. Devo dire che a chi dice se sono invidioso dei primi della classe, no, non siamo invidiosi dei primi della classe, basta che i primi della classe, cioè chi va bene è un modello per gli altri, non deve fare il primo della classe, quello che sa tutto lui, se no ha ragione l'ascoltatore che dice che sfortuna per i bambini problematici avere dei maestri incapaci. Grazie Alessandro Melli. Grazie a voi. Tutti questi maestri capaci, visto che l'area euro c'è chi dice basta con questa Germania, ho capito, poi lei è contento che non solo per colpa della Germania l'area euro sia l'unica area a livello mondiale che si è beccata la seconda recessione, ne sono usciti tutti, tranne noi, c'è chi dice è colpa dell'euro, no, è colpa di come abbiamo gestito l'area euro. A mio avviso. 349-238-6666 per i vostri sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. Poi chissà come qualcuno riesce a vedere in questi nostri ragionamenti addirittura di essere noi neoliberisti, casomai neo-keynesiani, dai. Minuti. Allora sì, vedo molti ascoltatori ancora sul tema della Germania, non parliamone più, non c'è nessuna invidia e io ripeto, quello che ha scritto l'ascoltatore secondo me può essere la sintesi perfetta di quello che ha detto in maniera improvvida e offensiva il presidente della Bundesbank Weidmann, definendo bambini problematici Italia e Francia. Saranno anche bambini problematici, ma i maestri mi sembrano alquanto incapaci, e di solito quando hai un bambino problematico in una classe, se il maestro è incapace la situazione va ad aggravarsi, caro Weidmann. Quindi ma mai in autocritica della Germania, mai in autocritica. Noi siamo qua a dire che abbiamo sbagliato, non abbiamo fatto i compiti, raccontiamo tutto quello che non va nel nostro paese, gli sprechi, gli scandali, ruberie, le prebende, chiediamo la testa virtuale della casta, però dalla Germania avessi ascoltato un'autocritica in 3 anni sulla gestione della crisi della crisi greca che ha portato all'attacco speculativo al debito dell'area euro, sulle dichiarazioni folli di Angela Merkel, non è detto che un paese resti nell'euro, che poi si è rimangiata tutte, sugli attacchi alla BCE che però ci ha salvato l'euro e anche qualcos'altro, compreso la Germania, sui vantaggi che ha avuto la Germania in questi anni con i rendimenti negativi a fare il primo della classe in Europa, cioè mai un'autocritica, tutto va bene, madama la marchesa, peccato che siamo piombati nella seconda recessione solo come area euro. Va bene, va bene. E abbiamo la disoccupazione a record storico in ogni singolo paese, chiaramente tranne la Germania. E che palle. Vabbè, la borsa adesso, no, quando uno ti dà ragione, però chiede semplicemente che tu ammetta che qualcosa hai sbagliato, avere queste maestrine della penna rossa che tutte dritte che dicono no, solo voi sbagliate, obiettivamente è fastidioso. La borsa ha chiuso leggermente positiva, più 0,1%, Francoforte più 0,1 anch'essa, Parigi più 0,20, Londra più 0,50%, l'America più 0,80. Tra i titoli CNH Industrial più 5,30, Telecom Italia più 3,5, ST Microelectronics più 2,5, Prysmian più 1,90 come Autogrill, l'1,30 lo guadagna Intesa San Paolo e Mediaset, l'1,1 Generali e Buzzi Unicem, lo 0,80 rialzo di Chrysler, Fiat Chrysler e Mediolanum. Poi c'è il caso del Monte dei Paschi, meno 3,90, peggior titolo tra quelli a maggiore capitalizzazione, Ferragamo meno 3,60, Luxottica di nuovo un calo, non così pesante come ieri, ma un altro 3% lasciato sul mercato. Atlantia meno 2,1, Moncler meno 1,90, Azimut meno 1,70, Pop Milano meno 1,50%, continua questo programma ad avere ospiti gli operatori di borsa, lo facciamo circa una volta a settimana. Dottor Roberto Russo, amministratore delegato di Assiteca Sim, buonasera. Buonasera. Dunque, al di là del tono generale della borsa, oggi mi sembra si tutti sullo 0,1, 0,2, Parigi, Francoforte e anche Milano. Che è successo al Monte dei Paschi? Ma guardi, Monte Paschi è una storia davvero... Le posso chiedere? Lei ha viva voce, mi scusi? No. No, la sentiamo un po'. Sono allora, auricolare. No. Forse... Sento meglio adesso? Ecco, adesso molto meglio, grazie. Sì. No, Monte Paschi, cosa è successo? Monte Paschi entra, a mio parere, un po' in quel discorso che faceva un po' lei prima. Noi italiani siamo molto bravi spesso a tirarci la zappa sui piedi, perché Monte Paschi è una banca che qualche mese fa ha fatto un aumento di capitale da 5 miliardi di euro, era atteso originariamente un aumento da 3 miliardi di euro, è stato fatto un aumento di 5 miliardi proprio per garantire il superamento degli stress test e dell'asset quality review, che sarà, i cui risultati saranno pubblicati il prossimo 17-26 ottobre, e oggi la banca capitalizza meno di 5 miliardi di euro. Cioè oggi la capitalizzazione di Monte Paschi è di 4 miliardi e 950 milioni di euro, ovvero ciò che dice oggi il mercato, che la banca prima dell'aumento di capitale non aveva valore o aveva addirittura un valore negativo. Sono delle situazioni abbastanza singolari. Se dobbiamo poi calcolare in modo logico Monte Paschi in questo momento, la capitalizzazione di Monte dei Paschi è pari al 48% del valore patrimoniale, azzerati anche gli avviamenti. Quindi mio parere personale è che cosa è successo oggi? Si rompono dei livelli tecnici, intervengono spesso i trader, ma credo che le opportunità che oggi offra in termini, diciamo, di medio termine il titolo Monte Paschi, ripulito negli ultimi anni di decine di miliardi di euro di svalutazioni e con un attivo patrimoniale oggi molto buono dal punto di vista qualitativo, a mio parere è un'opportunità di acquisto importante. Bene, almeno lei lo dice in maniera chiara e diretta. Ancora, per quello che riguarda altri titoli, vabbè, Luxottica meno 2,90%, ma non so se ha venduto anche lei, ma avete paura che il problema, che il tema della governance, per dirle in maniera alta, cioè di chi comanda in Luxottica, sia solo negli inizi, dopo quello che è successo, più cavatorta che guerra, direi. Vede, noi non abbiamo questi titoli nei portafogli dei clienti Luxottica, però posso dire onestamente, è certo che il cambiamento di guardia da guerra, che è stato il protagonista un po' della crescita del titolo in questi anni, magari in qualche modo abbia generato qualche mal di pancia da parte degli analisti, di alcuni operatori. Certamente però è un gruppo molto solido, molto forte, e quindi credo che ogni tanto capiti che i manager che hanno partecipato alla crescita poi decidano di andare via per motivi personali o altro. Certamente il fatto che dopo un mese il manager appena nominato se ne vada di nuovo, questa è una cosa un po' che disturba, con delle motivazioni, diciamo, tutte familiari, diciamo, esatto, privatistiche, esatto. Non familiari, scusatemi, privatistiche. Per cui oggettivamente mi rendo conto che, ecco, il cambiamento di rotta già un mese dopo, magari sì, questo dà un po' più fastidio. Devo onestamente dire però che Luxottica è una grandissima società i cui valori fondamentali anche sono interessanti, non rientrano in quelle società che noi consigliamo, perché tipicamente noi cerchiamo un differenziale tra il valore intrinseco e il valore di mercato del 30-40% per entrare ai nostri clienti, però chi le dovesse avere in portafoglio non mi metterei tanta paura, perché l'azienda è solida, è un'ottima azienda. Sì, al di là di Luxottica oggi è debole tutto il mercato del lusso, meno 3,60 Ferragamo, meno 1,90 Moncler, che ho dimenticato, Tod's meno 0,70 1,5%. Per quello che riguarda i titoli positivi invece, molto bene CNH Industrial, più 5,30%. Qui c'è una stima dell'UNRAE, che sono praticamente è l'associazione che riunisce i rappresentanti di autoveicoli esteri, che sostiene che gli autocarri fino a 3 tonnellate e mezzo a settembre hanno avuto una crescita delle immatricolazioni di quasi 40%, questo grazie all'aumento delle vendite a noleggio. Per quello che riguarda il nuovo titolo Fiat Chrysler, più 0,80%, Telecom Italia più 3,50%, ed Estima Microelectronics recupera un 2,55%, Prismian più 1,90% come Autogrill, Intesa San Paolo più 1,35% come Mediaset, Generali più 1,1%. Allora, di nuovo in diretta, dottor Russo, al di là del commento di borsa, lei diceva noi siamo investiti in titoli che hanno un differenziale, un potenziale di crescita del 30%, non so, ce ne vuole dare un paio come consiglio, ma soprattutto come siete messi sul mercato azionario, corti o lunghi, che vuol dire, andate a vendere o andate a comprare? Andiamo a comprare, e decisamente abbiamo due settori su cui abbiamo ora... abbiamo focalizzato la nostra attenzione. Il settore bancario italiano ci piace moltissimo. Bancario? Bancario italiano, le faccio dei nomi. Banco Popolare, Monte dei Paschi di Siena, Popolare Milano, UBI, Unicredit, Intesa San Paolo, e sono andato dal preferito al meno preferito, o meglio, comunque li compriamo tutti. Questo perché? Perché, come dice Warren Buffett, bisogna essere avidi quando gli altri hanno paura e avere paura quando gli altri sono avidi. C'è un terrorismo ingiustificato ancora sulle banche italiane, con il BTP ai minimi storici in termini di rendimenti e con la capitalizzazione media di queste banche che le ho citato, che è pari al 75% del corrispondente patrimonio netto tangibile, quando il multiplo corrispondente delle principali banche europee è del 130%. Cioè, noi continuiamo a quotare in borsa le nostre banche a multipli a un valore molto inferiore al valore patrimoniale, azzerando tutti gli avviamenti. Per questo non ha senso. Ecco, noi siamo molto positivi sul settore bancario, dove le faccio due esempi: Monte Paschi quota il 48% del patrimonio netto tangibile e Banco Popolare il 54%. Ci piacciono molto. Il settore del lusso, che lei ha citato prima, è un altro settore su cui ora iniziamo a puntare i riflettori, in particolar modo su due aziende. Ma perché un po'... Prego, quali? Salvatore Ferragamo e Moncler. Ma perché è un po' calato rispetto ai valori di qualche mese fa? Ma non tanto, cioè sicuramente il fatto che sia calato ha riaperto quel famoso gap che le dicevo prima, cioè differenziale tra valore intrinseco e prezzo di mercato. Il mercato fortunatamente è spesso irrazionale. Qual è il grande vantaggio del lusso italiano? Cioè le caratteristiche di queste aziende sono fondamentali e sono tre. Il lusso associato a Made in Italy crea delle barriere d'ingresso enormi che limitano la concorrenza. Queste aziende hanno l'enorme vantaggio di realizzare oltre 2/3 del loro fatturato all'estero, e in particolar modo in quelle aree geografiche in cui la domanda di beni di lusso è costantemente in crescita. E infine, cosa molto importante, il canale di vendita dell'e-commerce, cioè le vendite tramite internet, offre a queste aziende l'opportunità di aggredire un mercato potenziale di 1 miliardo di utenti, dico 1 miliardo, con margini di guadagno enormi, perché i costi fissi vengono di fatto abbattuti. A 20 volte gli utili, diciamo, noi abbiamo un criterio: comprare a 20 volte gli utili, che apparentemente potrebbe sembrare tanto, un multiplo alto, queste aziende è un prezzo di ingresso importante. Perché sono aziende, le faccio un esempio di Moncler, che triplica gli utili ogni 3 anni. Non è che voglio guffare a Remo Ruffini, però per ora così è andata. No, chiarissimo, a momenti rischiavamo quasi l'insider trading. No, sto scherzando, è importante che lei ricordi anche settori e titoli. Parzialmente condivido il ragionamento sulle banche italiane, poi vedremo gli stress test. Grazie all'amministratore delegato di Assiteca Assim, Roberto Russo. Sì, ci tengo solo a sottolinearle, tenere conto sempre del profilo di rischio dei clienti, perché non voglio apparire come giocatore d'azzardo. Non lo appare. Faccio solo notare che in un programma che spesso purtroppo ha notizie negative, tutti gli operatori di borsa che intervistiamo, lei incluso, va benissimo, comprano tutti. Ma chi cavolo vende su questo mercato? vedranno gli ascoltatori dopo che ascoltano Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta, prima di arrivare alla legge di stabilità, come si chiama adesso la legge finanziaria, vorrei fare un aggiornamento su quello che è successo di nuovo sull'Expo e purtroppo di nuovo di carattere giudiziario. Una risposta a chi dice ma come non si doveva vivere solo di export, no, non abbiamo mai detto questo, abbiamo detto che l'unica cosa che ha in parte controbilanciato la caduta, in alcuni casi anche crollo della domanda interna dei consumi italiani, è stato in questi anni l'andamento dell'export grazie alle imprese italiane che sono riuscite a esportare nonostante, diciamo, non vi siano state tutte queste iniziative pro export da parte del governo dello Stato italiano, ma attenzione, è praticamente impossibile sperare che la voce export controbilanci completamente il crollo dei consumi interni o il calo dei consumi interni. Può ridurre l'impatto complessivo ma non sostituirsi. Poi sappiamo benissimo, perché l'abbiamo anche ospiti molte volte, che ci sono imprese in questo paese che ormai per vivere devono esportare il 70, 78, 92% della produzione, e non solo nell'agroalimentare, anche in tantissimi altri settori. Però un conto è la singola impresa che riesce a sostituire perché aveva il prodotto, aveva la forza vendita, aveva la capacità anche di andare su quei mercati e riesce a sostanzialmente quasi annullare o ridurre minimo la domanda, il fronte italiano, i consumi italiani, e si sposta tutto sull'export. Ma complessivamente il nostro paese, che è fatto di un 94,5% di imprese con meno di 50 dipendenti, non si può pensare che tutte riescano a operare questo, diciamo, tasso di sostituzione, per cui o ripartono i consumi interni o non se ne esce col solo export. Questo devo dirlo con estrema chiarezza. Allora, dicevamo dell'Expo, Antonia Cerbo, l'ex responsabile del padiglione d'Italia di Expo, è finito agli arresti domiciliari oggi nell'ambito dell'inchiesta dei PM di Milano, Claudio Gittardi e Antonio D'Alessio, ed è finito ai domiciliari insieme, non nella stessa casa chiaramente, ma così come è finito ai domiciliari anche l'imprenditore Domenico Maltauro, che è il cugino di Enrico, e anche Andrea Castellotti, facility manager del Padiglione Italia. Allora, l'accusa nei confronti dei tre, le accuse sono pesanti, tra l'altro ci sono delle confessioni dell'ex amministratore delegato della società Tagliabue S.p.A. Giuseppe Asti, non è ex, in realtà è ancora di, da quello che sappiamo, indagato e interrogato, avrebbe parlato della promessa di una consulenza da assegnare al figlio di Acerbo. Allora, ci fa il punto Sara Monaci del Sole 24 Ore. Buonasera Sara. Sì, buonasera. Abbiamo visto accuse di, appunto, così, turbativa d'asta, esatto, perché ci sarebbe anche il fatto che Acerbo avrebbe imposto Tagliabue nella gara per le vie d'acqua. Sì, la vicenda è questa. Prego. Insomma, la merce di scambio, per quello che ne sappiamo oggi, è soprattutto un favore nei confronti del figlio di Acerbo, Livio Acerbo, che a quanto risulta agli inquirenti avrebbe preso intorno al 2012, quindi prima dell'assegnazione della gara, una consulenza. Per ora è emersa solo una consulenza da 30.000 euro, ma si prosegue con le indagini, a favore appunto della sua società. In cambio Acerbo, che ricordo ha un passato da direttore generale del Comune di Milano, poi è arrivato ai vertici della società Expo come subcommissario di Giuseppe Sala e come RUP, quindi responsabile unico del procedimento del Padiglione Italia, ecco, lui avrebbe poi agito di conseguenza, avrebbe favorito la Maltauro e le imprese collegate alla Maltauro per vincere a questo punto anche il lotto sud delle vie d'acqua, no? Il sistema di irrigazione del sito espositivo. E per quanto riguarda la Maltauro, era già finita nel mirino degli inquirenti anche relativamente ad un altro appalto, le architetture di servizio. Mm-hmm. Anche in questo caso Enrico Maltauro, già finito agli arresti, prima in custodia cautelare in carcere e poi domiciliari, perché anche in questo caso la gara sarebbe stata turbata. Quindi diciamo è la seconda gara dell'Expo in cui gli inquirenti hanno evidenza di corruzione e di turbativa d'asta. La merce di scambio in questo caso non è, almeno per adesso, perché non si esclude anche un pagamento diretto ad Acerbo, però diciamo in questo caso la merce di scambio era proprio favori nei confronti della società del figlio Livio, che doveva essere anche favorito in un secondo momento anche da un'altra azienda, la Tagliabue, oggi oggetto di pesanti perquisizioni. La Tagliabue stava promettendo in futuro di dare delle consulenze al figlio, non ancora però effettivamente concretizzate. Allora, da quello che capiamo è chiaro che, essendo la seconda vicenda, come tu ricordavi, in cui finisce in mezzo Acerbo, da quello che capiamo, però vorrei una conferma da te, Sara, i PM ipotizzano che Acerbo fosse un po' il dominus nel gestire queste corsie preferenziali, nel fare anche pressioni, ho capito bene? Allora, in realtà diciamo il nome di Acerbo torna, ma in questo caso effettivamente l'evidenza è su una sola gara, appunto alle vie d'acqua, le vie d'acqua, perché lui era responsabile della commissione aggiudicatrice delle vie d'acqua. È la Maltauro l'azienda che torna più volte. Lui per ora emerge solo insomma, diciamo è un appalto piuttosto importante per le vie d'acqua. Quindi Acerbo, diciamo, più che un ruolo di dominus, è un ruolo, se permettete, anche un po' imbarazzante, perché quello di Acerbo non era soltanto un ruolo di tecnica e quindi di colui che sceglieva in commissione di gara l'azienda che poi avrebbe facilitato in un secondo momento, ma è stato anche subcommissario, quindi diciamo un ruolo di assistenza diretta con i vertici, col commissario unico Sala, e in più aggiungiamo RUP, responsabile quindi del padiglione Italia, cioè di ciò che rappresenterà l'Italia all'Expo. Quindi diciamo lui si è dimesso prima dall'incarico di subcommissario, solo una settimana fa, 10 giorni fa, è arrivata la dimissione anche da RUP del padiglione Italia. Evidentemente oggi interpretiamo perché subodorava l'arrivo anche di qualche accusa e di qualche ordinanza più pesante. Quindi diciamo quella di Acerbo è una figura soprattutto imbarazzante dal punto di vista anche dell'immagine, della gestione della società Expo, dici tu, certo. Senti, l'ultima cosa che vorrei capire, perché il presidente dell'ANAC, che è l'autorità anticorruzione, Raffaele Cantone, ha acquisito l'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Antonio Acerbo. Secondo te è probabile a questo punto che si vada verso un commissariamento delle vie d'acqua? Io penso sia quasi certo, anche se poi chiaramente verrà deciso nei prossimi giorni. Giovedì ci sarà proprio un incontro fra tutti i vertici dell'Expo e Cantone, quindi si riuniranno Sala, Labracco, che è la presidente del Padiglione Italia, e tutti anche i manager interni, e ci sarà anche Cantone, oltre che al ministro Martina. Io credo che in quella sede si comincerà a parlare anche di un possibile commissariamento della Maltauro, che ricordo è già stata commissariata per le architetture di servizio, solo per quell'appalto, e probabilmente il commissariamento verrà esteso anche alle vie d'acqua. Ecco, chiarisco, il commissariamento serve per non bloccare l'opera, ma evitare, diciamo, che resti in mano a chi è sotto accusa. Sì, cerchiamo di spiegarla così. Sì, diciamo è un commissariamento parziale, è una novità introdotta da un ultimo decreto del governo Renzi, che ha proprio istituito e che ha rafforzato l'ANAC e che gli ha dato anche poteri per quanto riguarda gli appalti pubblici. È un commissariamento che serve a mettere sotto tutela quell'appalto. Non si può commissariare un'azienda privata, ma si può fare in modo che quegli utili e quei lavori che riguardano un'opera pubblica non vadano poi sotto la giurisdizione, sotto diciamo la normale amministrazione dell'azienda, quindi gli utili di quei due appalti sono congelati e tenuti diciamo in cassaforte dall'ANAC, non possono essere versati direttamente all'azienda, una sorta diciamo di supervisione relativa solo a quell'appalto, per ora solo per l'architettore di servizio, ma appunto ci aspettiamo nei prossimi giorni un'esigenza, diciamo che la custodia cautelare abbia ampliato l'esigenza di un commissariamento, perché Cantone ricordo aspetta proprio questo, non l'indagine è ancora diciamo un atto che per garanzia non può essere ancora oggetto di accusa in modo incondizionato, però è vero che un'ordinanza cautelare, di custodia cautelare, così come un sequestro ad esempio, è un atto che è stato firmato da un giudice per le indagini preliminari, quindi ha già avuto un passaggio da un giudice terzo e questo per Cantone è un elemento già sufficiente per intervenire con un commissariamento. Legge di stabilità, allora una manovra da 30 miliardi con 16 miliardi di tagli, 18 miliardi di tasse in meno. Questo quanto svelato, tra virgolette, anticipato ieri dal Premier Renzi. 3 anni a 0 contributi per le neoassunzioni, 6 miliardi e mezzo per abolire la componente lavoro dell'IRAP, ridurre la componente lavoro dell'IRAP, 0,5 miliardo di detrazioni per le famiglie. Non ci sarà invece nel provvedimento l'operazione TFR in busta paga, perché come ha chiarito oggi il sottosegretario Delrio il tema è da approfondire. Nessuna divergenza con il tesoro, dice oggi Matteo Renzi. Il ministro Padoan conferma la correzione strutturale resta lo 0,1%, resteremo sotto, o meglio rispetteremo il limite del deficit al 3% del PIL, abbiamo già ascoltato in apertura del programma la dichiarazione di Padoan. E poi le risorse, dice il sottosegretario Delrio, arriveranno dalla lotta all'evasione e dai tagli. Soddisfazione del presidente Confindustria Squinzi, che è intervistato il nostro Andrea Viali, oggi dice sulla legge di stabilità ci sono delle cose che vanno a realizzare un nostro sogno, in particolare IRAP e i contributi per i neoassunti. Ieri quando l'ha annunciato il Presidente del Consiglio, onestamente io ho sentito un po' che si realizzava quasi un nostro sogno, perché noi sono anni che chiediamo l'eliminazione della componente lavoro dal calcolo dell'IRAP, e quindi va esattamente nella direzione come altri che noi auspicavamo da tanti anni, e ancora prima di me anche Emma Macegari. Detto questo, anche l'altro provvedimento dell'azzeramento dei contributi sui neoassunti per 3 anni è un altro provvedimento molto positivo, quindi noi come sempre attendiamo poi la conversione in l'attuazione di questi provvedimenti, però in questo modo non possiamo altro che dichiarare la nostra piena soddisfazione. Le assunzioni si fanno quando c'è la richiesta di mercato. In questo momento il mercato, come voi sapete, è molto depresso. Vedere gli ultimi dati sulla produzione industriale e sull'andamento del PIL. Però credo che sia una serie di misure fondamentali per far ritrovare la fiducia agli investitori, che è quello che manca veramente per invertire la tendenza, per riprendere un percorso di crescita. E invece contraria, ha ribadito la sua contrarietà il segretario della CGIL Susanna Camusso, che dice non è una manovra per uscire dalla recessione, non mette in moto né investimenti né occupazione, ieri l'aveva definita una manovra recessiva. Allora Dino Pesole del Sole 24 Ore, buonasera di nuovo. Buonasera a te. Lo scriba anche di questa legge di stabilità. Allora, io ho capito, 30 miliardi, 16 di tagli, 18 di tasse in meno. Posso confessare, nella somma della mia ignoranza, che non ho capito da dove arriveranno le risorse? Beh, la puoi confessare e anche condividere con me se vuoi, perché in effetti l'annuncio è importante, soprattutto molto importante l'idea appunto di lavorare su un aspetto fondamentale che è quello dell'azzeramento dei contributi per i assunti per 3 anni, l'intervento sull'IRAP va benissimo. Allora qui il nodo principale come sempre è quello delle coperture. Allora quello che si sa, le coperture sono l'oggetto del lavoro che in queste ore febbrili, perché il Consiglio dei Ministri è stato convocato per domani alle 15, i tecnici dell'economia e della ragioneria stanno esercitando. Allora, come tagliare 16 miliardi alla spesa? In effetti è un'operazione che risulta molto, molto complessa, a meno che poi non si inseriscano, come penso poi si farà, all'interno della categoria taglia anche altre voci, quindi forse poi alla fine potrà essere meno forte l'impatto dei tagli, ma comunque sia sarà molto rilevante. Da quello che sappiamo investirà sia le amministrazioni centrali che quelle che gli enti decentrati di spesa, ancora non si sa in quale percentuale, soprattutto se si adotterà e in che misura una vera e incisiva operazione selettiva di riduzione della spesa, la cosiddetta spending review, oppure se si ricorrerà ancora una volta a tagli più o meno lineari o semi. Quindi su questo, ovviamente, su questo punto sospendiamo il giudizio fino a domani sera, fermo restando che, come dire, l'obiettivo e l'annuncio sono assolutamente condivisibili. Sì, appunto Del Rio dice genericamente le risorse arrivano dalla lotta all'evasione, sì, e dai tagli. E ha aggiunto tagli dove si può e si deve fare ai ministeri e alle regioni che pure hanno una limitatezza di obblighi in servizi ai cittadini. Il TFR mi sembra tramontato per ora, però vi faccio notare che due voci mancano all'appello. Una è la spending review. A me sembra che sulla spending review si vada nella versione minimale, e poi la lotta all'evasione ogni volta viene messa in bilancio, ma sappiamo che è un desiderata, è così, un auspicio, ma poi non è che tu possa diciamo già contabilizzarla prima. Secondo te è su questi due aspetti che potrebbero concentrarsi le critiche di Bruxelles? È su questi due aspetti, io ritengo, più sulla composizione dei tagli, oltre che sull'importo complessivo, perché è la vera clausola di garanzia per Bruxelles, cioè se il nostro paese riesce per una volta a fare un'operazione selettiva molto difficile, molto, anche perché poi c'è il Parlamento che dovrà esaminare la manovra, non dimentichiamolo, quindi operazione molto complessa, ma se alla fine riuscirà, questa è la clausola di garanzia. Poi però c'è una trattativa che è tuttora in corso e che non è del tutto scontato l'esito, poiché lo stesso Padoan oggi ha ribadito a Lussemburgo che il governo non interviene sul deficit strutturale, insomma, per sostanza, per chi ci ascolta, è il deficit che serve per arrivare al pareggio di bilancio, insomma, per capirci. Poiché non interviene, Bruxelles ci ha chiesto di intervenire, allora bisogna capire se su questo punto riusciamo a trovare una via di compromesso. La spending review è la garanzia anche da questo punto di vista, quindi come si vede ruota tutto attorno a questa partita. Sì, cioè aggredire il deficit, diciamo, strutturale, non quello congiunturale, non dovuto per esempio a un PIL che cresce meno, ma alla parte che hai strutturalmente come paese. Domani dovremmo avere maggiori chiarimenti. Grazie intanto a Dino Pesole del Sole 24 Ore. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata. Focus Economia torna come sempre domani dalle 17 in poi.